Vivi qui? Sei della io. Zona? No, non sono della zona, però. Allora, quali sono i rumori tipici che sente quando apre la finestra di casa? Quando apro la finestra, allora, per dove vivo io, che è un posto abbastanza tranquillo, un po' in periferia. Dove vivi? E verso Pedersano, insomma, in un paese un po' più in collina, ecco. E in realtà quando mi sveglio io la mattina è veramente tranquillo. Oggi ho sentito un po' di vento, però per quello i rumori non ce ne sono così forti. Ecco. Ci sono suoni piacevoli e non piacevoli? Allora, piacevoli sì, perché comunque appunto per dove sono io si sente un po' più la natura, qualche animaletto la mattina. Spiacevoli devo dire no. Lavoro qui? Sì, sì, sono, porto i pasti alle persone anziane, ecco. Ah, ecco. Porti i pasti alle persone anziane? Sì, sì, sì. E no, comunque è un bel paese, c'è un po' di tutto. Quindi, è un racconto tipico che hai sentito dalle persone anziane qui del luogo? Un racconto tipico, beh, allora qua vivono molte persone appunto magari di un'età un po' più avanzata, perché reputano tutte comunque un paese dove si può stare a proprio agio, ecco, così. Ecco. Wow, che lavoro di valore.